mamma, senza mani, senza soldi, senza piani. Queste puttane sono tigri, è un safari sulla via della perdizione, senza fari. 11 dischi dopo, ancora senza capo, belli. Ciao. Ancora spendo, stando fuori dai vostri caroselli. Cerchi pischelli che dicono il vero, siamo quelli. Fuori bianchi, dentro negri, il contrario di Balotelli. Calogo, primo 2P, pure NC. Sherlock con primo 2G, pure 3C. Apre il terzo occhio come Tenzin. Ti faccio a pezzi, col gruppo tuo che sembrate gli NC. Se danni incastro, ti prendi male, premi il tasto pausa. O ti faccio vedere le stelle, astronauta. Ti piace il rap, eh? Ora vorresti metterti a farlo. Ti piacerebbe. 2P. Uno per i soldi, due per lo show. Three bad motherfuckers. What? Primo. Ti piacerebbe avere un piano ad ogni passo falso della vita, fare l'eroe, pizzare la torsida come Coez e Briga. Figa pelosa anni 80, Merkel, troie con le zecche, con la sfumatura alta, fuori dal perimetro del mio bacino, che mi libero di voi da sopra un pattino. Primo, sei troppo vecchio, bravo, vaglielo a dire a ste cagne sul tavolo quando me le apparecchio. Io so ti irrito, ti piace che smetto, ma più ti irrito, più scrivo compulsivo ogni minuto netto. Non c'entro dentro la tua buca, un ferro alla nuca, piango, welcome to the jungle, Giuda. Muta la commedia quando scendo in campo, manager, mename se vuoi che scendo il palco. Pensi, cambia moda, cambia droga, cambia un cazzo, io sto a circonvalazione, Gloria Nancy, testa coda. Uno per i soldi, due per lo show. Three bad motherfuckers. What? Primo. La mia attitudine, il mio sogno e i testi. Almeno due di queste le vorresti. Non dico tre perché non me la tiro come rapper, ma lo sappiamo sia io che te quanto ti piacerebbe. C'è chi può e c'è chi non può, lo so, è una delusione. C'è chi ci nasce con una certa predisposizione, come la tua donna, quanto le piacerebbe farsi un calciatore. C'è chi può e c'è chi paone, sogni di fare il cash con rap e di comprarti anche la moto. Sei un ragazzo fortunato, sei arrivato molto dopo. Fai una raffica di video, fai una raffica di foto. Hai fatto un demo scemo, mica hai fatto Africa dei Toto. Ti piacerebbe andare in radio come Monte il Jordan. Ti piacerebbe avere nell'armadio tante Jordan. Ti piacerebbe prendere 5 da chi conti. Appena fai la mossa, 5 lo prendi in faccia come la mossa di Honda. Uno per i soldi, due per lo show. Three bad motherfuckers. What?